Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Questa redazione cerca sempre gli altri animali, o potremmo dire gli animali altri, la loro condizione, il modo in cui vengono trattati, pensati, immaginati, in ogni tipo di dibattito, nell'attualità, nella cultura, nell'economia, nella medicina, di questa settimana, che è la numero 689, parleremo soprattutto della vicenda trentina, il runner morto in uno scontro con un orso. Daremo conto della inammissibile reazione della pubblica amministrazione locale e riporteremo i commenti di tecnici e di associazioni. Parleremo poi della diversa, migliore gestione faunistica che viene portata avanti in Abruzzo, ma anche di vivisezione e di riti religiosi. Non mancherà la consueta ricetta vegana a tema firmata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni. La parte musicale è di Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriositi. Anche questa settimana vorremmo darvi notizie bellissime, vorremmo parlarvi dello svuotamento dei canili, per esempio, del totale superamento della sperimentazione su corpi animali. Sono queste le notizie che vorremmo darvi, invece dobbiamo ancora dare notizie nefaste. Quella di oggi è particolarmente dolorosa, in quanto si tratta, potremmo dire, di un concatenarsi, di un crescendo di terribili notizie. Non si tratta infatti più solo della disgraziata e tragica morte di Andrea Papi, il runner trentino che probabilmente correndo in discesa ha incontrato un'orsa dietro una curva, spaventandola e portandola quindi a sferrare un attacco mortale, ma anche della mostruosa decisione della provincia autonoma di Trento di reagire politicamente a questa sciagura in modo vendicativo, barbaro e sanguinario, con le armi, spargendo il sangue di 50 orsi, tra i quali la femmina che sembra avere ucciso Papi. In Trentino vivono tra i 100 e i 110 orsi. Se la provincia autonoma farà quello che promette, la popolazione di orsi ne uscirà dimezzata. Andrea Papi era un 26enne appassionato di corsa in montagna, laureato in scienze motorie. Viveva non lontano dal luogo dell'incidente, quindi sul versante nord delle Dolomiti di Brenta. La sera di mercoledì 5 aprile, correndo, si è imbattuto in un orso che lo ha aggredito, uccidendolo. Sul corpo i segni lasciati dal plantigrado, ferite di denti e di unghie. Dalle ferite del giovane è stato estratto il DNA dell'esemplare che lo ha aggredito. Si tratta del primo caso di morte in seguito all'attacco di un orso da quando questi animali sono stati reintrodotti in Trentino. Il 7 aprile, in una conferenza stampa, sembra che Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, abbia dichiarato: «Non mi preoccupa il benessere degli animali, non mi preoccupa come verranno catturati, non mi preoccupa neanche se i nostri organi dovessero sbagliare animale nelle azioni che fanno per identificare il soggetto». L'alterato e feroce discorso di Fugatti potrebbe anche essere dovuto al fatto che la famiglia di Papi ha annunciato di voler denunciare la provincia autonoma di Trento e lo Stato, contestando le modalità del progetto Life Ursus, quello avviato a fine anni 90, la reintroduzione degli orsi in quella parte delle Alpi che ha funzionato se oggi ci sono più di 100 orsi in Trentino. Il giornalismo si è abbastanza scatenato, col solito sensazionalismo. Tra gli annunci ultimamente anche quello secondo il quale una donna di 50 anni sarebbe stata morsa da un lupo in zona Porcari a Lucca, in Lucchesia, quindi nel tentativo di difendere il suo cane. Come scrive qualcuno, adesso ci mancano solo gli assalti dal cielo da parte di corvi, cornacchie e gabbiani. Le analisi genetiche sul sangue trovato sul runner deceduto sono state condotte dalla Fondazione Mach e hanno individuato l'orso colpevole. Sembra essere l'orsa JJ4, un'orsa che nel 2020 era stata catturata e dotata di radiocollare perché ritenuta problematica a seguito del ferimento di due persone, un padre e un figlio, che stavano facendo un'escursione sul Monte Pellier. È stata infine emessa la sentenza, l'orsa JJ4, colpevole di aver ucciso Papi, verrà abbattuta. Quindi un orso viene condannato a morte, nonostante che, per evitare gesti di vendetta e giustizia sommaria, qualche giorno prima la provincia avesse interdetto la visualizzazione della mappa, volontà politica di far convivere le persone umane con l'ambiente che le circonda e con le creature che lo abitano. L'allarmismo e il sangue, come sappiamo, sono sempre molto graditi alla politica perché creano risposte muscolari e si viene ripagati elettoralmente. Dunque c'è stato per l'Aifursus in effetti uno sforzo tecnico introduttivo per gli orsi, uno sforzo che è stato sicuramente efficace, ma è mancato l'investimento politico, quello che doveva formare la cittadinanza alla convivenza con l'orso, preparandola alle precauzioni necessarie da prendere. È probabile che a Fugatti non interessino particolarmente gli orsi. La posizione politica che sta tenendo è quella tipica del partito a cui appartiene. E la psicosi collettiva che si è scatenata in Trentino dopo la vicenda lo spinge ancor di più a comportarsi da duro, secondo la sempre utile dottrina law and order. Ma potremmo anche dire prima spaventa e poi rassicura. Uccidere un po' di orsi darà la sensazione di avere un'amministrazione virile, pronta a tutto pur di difendere i cittadini. Elettoralmente parlando, probabilmente questo funziona, ma faunisticamente i tecnici quasi all'unanimità parlano di una soluzione inutile. Più parti viene ripetuta la stessa frase: non siamo i padroni di questo mondo, ne facciamo parte insieme alle altre specie animali. Il dottor Maurizio Calleri, medico veterinario ed ecologo, ha scritto che bisognerebbe sapere che l'orso è un animale schivo, che non attacca deliberatamente l'uomo, che lo fa per difendersi quando viene spaventato o è minacciato. La responsabilità è quindi del presidente della provincia, che non ha fatto informazione nel suo territorio sulla giusta convivenza con gli orsi. Chi va in montagna deve conoscere come comportarsi e i rischi che ci possono essere, così come chi attraversa la strada deve sapere che ci sono veicoli e che questi lo possono investire se non fa attenzione. Chi non conosce l'ambiente e gli animali che ci vivono e non sa come comportarsi in caso di incontro deve essere informato dagli amministratori locali, oppure non deve proprio avventurarsi perché crea problemi che non può risolvere. Chi va in montagna deve rispettare le regole della natura, se non le rispetta dovrà accettarne le conseguenze. Sempre su una necessità di fare retromarcia, l'etologo antispecista Francesco De Giorgio è molto chiaro e parla di come si debba anche saper tornare indietro, rinunciare, ritirarsi. Ne parla in relazione appunto allo sviluppo umano, ma anche nella prospettiva di obiettivi personali, che siano sportivi o turistici, se la natura lo chiede. Capire che anche attività apparentemente innocue possono essere molto invasive dal punto di vista animale, perché, scrive De Giorgio, la natura non è una palestra né un centro benessere e ogni cosa va negoziata, ragionata, accettata in accordo con le regole dell'animalità. Dobbiamo tornare quindi a una logica animale, a un pensiero animale, non per correre dietro alla retorica della sicurezza che fa più male che bene agli animali e agli altri animali, ma perché è una questione di etica e giustizia sociale interspecifica. Dobbiamo capire l'importanza di assumere una prospettiva antispecista, che è antitetica alle culture venatorie, zootecniche, addestrative e speciste in generale, perché molte soluzioni che ora non vediamo sono proprio lì e sono anche molto semplici, ma va cambiato radicalmente il paradigma per vederle. È diventato virale in rete il racconto di Federico Andreoli, che condivide sui social il suo viaggio in Alaska, la sua esperienza di un ambiente naturale nel quale lui era andato proprio per incontrare gli orsi. Arrivato nel minuscolo resort in mezzo al nulla, dice Andreoli, i ranger ci hanno spiegato come avremmo dovuto comportarci aggirandoci nei boschi. Ci hanno spiegato che gli orsi sono animali solitari che non amano l'incontro con l'uomo, per cui ci hanno regalato un campanello da legare alle caviglie per fare rumore e per non arrivare in prossimità di un orso senza che lui se ne potesse accorgere per tempo. Ci hanno anche spiegato che se si incontra un orso è meglio non correre, ma semmai o fingerci morti o allargare le braccia stando immobili urlando con voce cupa. Siamo stati per 3 giorni a Brook Falls e abbiamo passeggiato soli nei boschi, incontrando decine e decine di orsi, alcuni a poche decine di metri, intenti alla pesca del salmone. Migliaia di persone frequentano ogni giorno questi santuari degli orsi sparsi in tutta l'America. Invece di prendersela con gli orsi, bisogna ricordare che l'orso, così come la montagna o come la bicicletta, non è mai il colpevole. Se vogliamo convivere con la natura, dobbiamo imparare a conoscerla e a rispettarla. Da lupi, orsi e vipere ci si può difendere, ma più difficile è difendersi dalla superficialità e dall'ignoranza. Dovremmo imparare o tornare a imparare a fare il nostro, che è quello di ragionare sugli eventi, sui tanti problemi e pericoli che ci circondano, su come risolverli e soprattutto su come prevenirli, come non dargli ragione. Esistono dunque tanti parchi, soprattutto nel Nord America, dove gli animali selvatici possono essere incontrati a dovuta distanza, prese le debite precauzioni. Barbara Mugnai, attrice e poetessa con la quale vogliamo chiudere questo servizio, ha scritto: vogliamo i boschi solo per noi, e il mare, i deserti, il cielo e la terra. Vogliamo essere i padroni assoluti di tutto, beceri, arroganti, crudeli, sprezzanti, e siamo padroni solo della nostra fine. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world, painful to me. Pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures remain. So does the pain. Words are meaningless and unforgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world, painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my home. All I ever wanted, all I ever needed is here in my home. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Can only do harm. Dal Trentino Alto Adige ci spostiamo verso sud, andiamo in Abruzzo. L'Abruzzo dice no all'invasione umana negli habitat naturali. A fare infatti da controcanto alle scelte sterminatrici del Trentino ci pensa il Parco Nazionale d'Abruzzo, che ha appena annunciato un nuovo disciplinare uomo-animale dedicato stavolta al lupo, per salvaguardare questa specie in una prospettiva di convivenza pacifica con gli umani. L'Abruzzo infatti affronta la convivenza con gli animali selvatici in modo non muscolare. quello che è già stato fatto a tutela e difesa dell'orso bruno marsicano viene adesso fatto anche per il lupo. Lo dichiara il direttore del parco Sirente Velino, che si chiama Igino Chiucchiarelli. Il nostro intento è quello di monitorare le specie selvatiche, ma soprattutto di capire perché questi animali tentano di avvicinarsi alla popolazione alla ricerca di un cibo facile. Il disciplinare serve anche per educare e punire gli umani, che spesso si avvicinano in modo incauto per curiosità, per fotografarsi e fotografare, diffondendo poi sui social tutti i riferimenti della posizione in cui si trova un animale selvatico. Questo diventerà un reato, si chiamerà reato di mancata riservatezza. Ancora viene chiesto di non lasciare in giro per il bosco buste di immondizia che diventano un facile bottino per gli animali selvatici. E per ovviare verranno istituiti particolari cestini, inaccessibili all'orso, in modo che l'immondizia non diventi un pasto. Chiucchiarelli parla di preservare l'invasione dell'uomo nell'habitat naturale, un capovolgimento di prospettiva totale rispetto alla reazione isterica del Trentino. E questa redazione si trova d'accordissimo con le pratiche abruzzesi e in totale disaccordo con quelle del Trentino. Questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Allora, facciamo un patto. Io vi do tutte le ricette trentine che volete, chiaramente in versione vegan. Ma che questo sia l'unico motivo per cui in questa trasmissione si parli del Trentino e non per gli orsi e tutta la catena violenta di drammatici eventi. Che questa torta sia di buon auspicio. Gli ingredienti per uno stampo di 22 cm di diametro per la torta del Trentino al grano saraceno sono 100 g di farina di grano saraceno, 100 g di farina tipo 0, 100 g di mandorle non spellate, 300 ml di acqua, 40 g di olio di semi di girasole, 120 g di zucchero di canna, un pizzico di cannella, 10 g di cremor tartaro, un pizzico di bicarbonato, 10 ml di succo di limone, un pizzico di sale fine, 250 g di marmellata di ribes rossi. Tostate le mandorle in forno a 160 gradi per 10 minuti. Lasciatele raffreddare, quindi tritatele col mixer, ma non troppo finemente. In una boule unite l'acqua e l'olio di semi di girasole, aggiungete lo zucchero e la cannella, continuate aggiungendo le due farine, il sale e il cremor tartaro. A questo punto mescolate tutto con una frusta fino ad ottenere un impasto liscio. Aggiungete le mandorle, mescolate ancora. Infine unite il bicarbonato e sopra di esso versate il succo di limone. Quando i due ingredienti faranno reazione creando delle bollicine, date un'ultima mescolata con la frusta e versate il composto nello stampo che avrete precedentemente spennellato di olio e spolverato con la farina. Cuocete in forno statico a 170 gradi per circa 40-45 minuti. Lasciate raffreddare, quindi dividete la torta e farcitela con la marmellata. Se si gradisce, si può decorare con dello zucchero a velo prima di servire. Finalmente siamo in grado di darvi una buona notizia. Un nuovo sondaggio, condotto da Savanta Comres, in 8 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, ha avuto un esito che ci piace restituirvi. La grande maggioranza dei cittadini europei sarebbe contraria all'uso degli animali nella ricerca e chiede di accelerare la completa sostituzione per passare a una scienza innovativa all'avanguardia senza animali. Lo rende noto la Lega Antivivisezione, la LAV. In particolare il 73% dei cittadini sono concordi sulla profonda preoccupazione per l'utilizzo di animali nella ricerca e il 76% ritiene che si debba fare di più per accelerare la completa sostituzione degli animali nella sperimentazione. Infine, un'altra percentuale, il 75%, vuole che l'Unione Europea sia leader globale nel passaggio alla scienza e all'innovazione senza uso di animali. Questo è un risultato, dice la LAV, che non stupisce. A fronte dell'ennesima conferma del volere dei cittadini e dell'esempio dato da governi trainanti come quelli nord europei, auspichiamo che anche l'Italia, il nostro paese, prenda immediatamente delle misure concrete per lo sviluppo e il sostegno a una nuova ricerca che sia utile, rapida, affidabile e human-based e vengano vincolati dei fondi per l'implementazione di nuove tecniche di ricerca etiche, valorizzando la vita animale e il futuro dei giovani ricercatori italiani. Conclude così il comunicato Michela Kuan, responsabile LAV per l'area ricerca senza animali. In Medio Oriente per parlarvi di una questione piuttosto inquietante. Il corpo degli animali, come sappiamo, alimenta emozioni, passioni e significati spesso molto violenti e sanguinari. Ci riferiamo a quanto è accaduto per le festività pasquali a Gerusalemme, dove l'influente rabbino del Muro del Pianto, Rabinowitz, ha faticato a tenere testa a quegli ebrei estremisti che volevano a ogni costo tenere il sacrificio rituale di un agnello sul monte del Tempio, che però è anche la spianata delle moschee per i musulmani, in occasione della Pasqua ebraica, che quest'anno coincide per l'appunto con il Ramadan. In una nota della Western Wall Heritage Foundation si legge che a seguito di notizie sull'intenzione di condurre un sacrificio pasquale sul monte del Tempio, il rabbino del Muro del Pianto si è dato da fare per impedire di portare animali nell'area di Mugrabi, che sarebbe l'ingresso al complesso dedicato ai non musulmani. Anche il rabbino capo sefardita Yitzhak Yosef si è pronunciato contro simili tentativi, vietando pubblicamente ai fedeli di recarsi sulla spianata delle moschee in quanto grave violazione della legge ebraica. Il sito nella città vecchia di Gerusalemme è sacro per entrambe le religioni ed è anche un frequente luogo di scontri. Negli anni estremisti ebrei hanno cercato più volte di introdurre animali vivi sulla spianata per compiere il sacrificio rituale in occasione di Pesach, la loro Pasqua. Il gruppo estremista ebraico Ritorno al Monte ha offerto 20.000 shekel, cioè oltre 5.000 euro, a chiunque riuscirà nell'impresa vietata dalla legge. Siamo a questi punti. Il direttore di tale organizzazione è stato arrestato in via precauzionale e altri due israeliani sono stati fermati dopo essere stati trovati nella città vecchia di Gerusalemme con una capra viva. Permettere un sacrificio rituale nel sito religioso non può che alimentare una situazione già esplosiva. Dunque, non solo l'alimentazione, ma anche certe simbologie religiose allontanano la possibilità di convivere in pace. Quando la religione viene interpretata in modo così sanguinario, non può che portare ad estreme conseguenze. Per noi, la scelta cruelty free continua a essere l'unica scelta veramente, profondamente spirituale, oltre che politica. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.